Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora c'è Oscar che sta combattendo con un Pokémon Go che è comparso qui e con un computer. Sempre 2-0 per il computer, sì, computer con doppietta nei primi 5 minuti. Vorrei donare a qualche museo della preistoria archeologica dei sistemi di software. No, questi no. Allora... Senti come batte sulla tastiera, ce lo rifai? è immobilizzato su una schermata del Mulino Bianco. Abbiamo dei colleghi che evidentemente vabbè. Allora 21 di luglio è una specie di muta, anzi sonora protesta per lo stato tecnologico con cui lavoriamo. Comunque oggi San Lorenzo di Brindisi, vicario generale dei Cappuccini, un santo della Controriforma, morto nel 1619. Tra i nomi molto diffusi di cui i santi ricorrono oggi: Arbogasto, Prassede, Vittore. Detto tutto questo, nel 1979, oggi, cadeva sotto i colpi della mafia il commissario Boris Giuliano, commissario della squadra mobile a Palermo. E tra i tanti compleanni di oggi ce n'è uno che insomma è un personaggio a un certo peso, perché nel 1948 oggi nasceva Beppe Grillo. Ah, oggi è il compleanno di Beppe Grillo? Eh già. Allora, qua, cari ascoltatori, 349-238-6666 è il numero. Voi pensate magari, Oscar, che la gente deve chiamare sempre sulle cose, dei temi del giorno. Potete chiamare su quello che volete, no? Potete dire sì, anche, insomma, anche sui Pokémon Go. Non se avete litigato con vostra moglie. No, però. Chiaro. Però se volete dirci dei Pokémon Go, se li trovate, fate pure. Anche alla cava. Hai visto che... Dunque, ma a te è capitato? Di la verità. No, c'hai amici che vanno in giro per la città? Non ho visto nessuno per ora giocare col Pokémon Go, ma devo stare più attento, evidentemente. Ieri verso le 18 invece c'era una viva curiosità a Piazza Cadorna, fuori la stazione, perché c'erano due che erano evidentemente con i telefonini alla mano, vedevano i Pokémon in mezzo alla gente, insomma, e hanno coinvolto un bel po' di soprattutto giovani, però tra i 30 e i 40 e i quarantenni che andavano dietro, quindi insomma era diventato... Cioè c'era proprio un gruppo di... Sì. Vedi qua un ascoltatore, stamattina ho fatto 3 chilometri per cacciare Pokémon, ma vedi. Ragazzi, ma io... No, ma cosa si farebbe pur di non arrivare in orario d'ufficio? Esatto. Questo lo capisco. Lei è un dipendente pubblico. Partiranno le scuse, no? Scusa cara, ero in giro a cacciare Pokémon. Beh, questa non credo che reggerebbe 5 secondi, però comunque il fenomeno c'è. Del resto c'è chi dice, ma insomma finché era la PlayStation e si stava a casa a giocare non aveva niente da dire. Qui si va all'aria aperta. Qui invece si fa sport, capisci? Si fa sport. Comunque vogliamo fare gli auguri a Emanuela che ci scrive, dice anche il mio di compleanno, mi fate gli auguri. Emanuela, grandi auguri. Ovviamente un grosso abbraccio. Tantissimi auguri Emanuela, grazie dell'ascolto. E sappia che gli auguri sono un giorno particolarmente importante, perché dovete sapere che Alessandro Milan, da quando ha letto finalmente i nomi veri dei cinesi che stanno dietro l'offerta alla squadra, tra cui Sonny Wu, io volevo fare la battuta su questo, ma vedo che ci sei portato avanti. Sì, l'ho già messo su Twitter. Wu compra al Milan. Ti sei portato avanti. Mi sono portato avanti, non so, devo capire chi è questo Sonny Wu. Ha dei buoni soldi GRS Capital, sì, ha dei buoni soldi. Però questa lista di personaggi sono tutti personaggi apparentemente pressoché ignoti, però i soldini ci sono. Bene, questa è una cosa e positiva. Non si sa se poi naturalmente le loro telefonate verranno annesse alle inchieste. Ops, ma questo è un altro problema. Ah, eccolo qui. Allora, noi parleremo ancora di Turchia, perché ne parleremo, caro Oscar. Parleremo anche di tribunale dei minori, perché guarda che tu l'altra volta hai fatto una domanda a Fabio Roia che avevamo sul fatto che potrebbero scomparire i tribunali dei minori. Dalle 9 alle 9.30 ne parliamo, perché non si capisce bene questa riforma, che però alcuni vogliono. Che alcuni vogliono. L'abolizione del tribunale. Il mondo del diritto su questo spaccato un po' a metà, perché c'è chi sostiene che è bene far così, altri dicono no, è un rischio. Tentiamo di capire. L'unica via preoccupazione che abbiamo noi è quello di tutelare davvero i diritti dei minori, qual è il modo migliore, insomma, capirlo e spiegarlo. C'è chi ci dice: stamattina invece ho fatto 3 km per cacciare chi caccia i Pokémon. Va bene, adesso c'è il... No, ma io che sono contrario a questa cosa non mi avranno, però sono anche critico verso chi dice: ah, chi fa i Pokémon non ha niente da fare, tempo perso, no, fannulloni, disgraziati, debosciati. Ma no, insomma, ma uno si può anche divertire come... No, ma come noi rispettiamo la libertà. Il fenomeno di costume è quello di chi ha... queste cose le coltiva da anni, dico dal punto di vista commerciale, l'ha patentemente azzeccata, perché se vedi nel mondo si è diffusa in poche settimane come una cosa virale, quindi come no. Beato chi se la inventa. Comunque, caro Oscar, è tornata la politica, vedi? Sì. Dopo un po' di assenza la politica al Senato, sì, in votazione segreta, come ha detto Grasso, è stata bocciata la possibilità di utilizzare le intercettazioni. La votazione di Berlusconi, il Senato non approva l'utilizzo delle intercettazioni, delle oggettine con Berlusconi nel processo Rubiter. Gente schifosa. Questi sono del 5 Stelle che criticano. Maledetti, maledetti servi. Cosa abbiamo portato? Belli, caramelli abbiamo portato. Belli che siete, bravi. È tornata la politica nel modo... Non riesci a capire, siete dei... Non ho capito. Non lo so. Comunque, insomma, era uno scambio gentile Renzi di opinioni Renzusconi. Siete dei Renzusconi. Animali mitologici fatti dalla somma di chi sostiene il patto del Nazareno. Esatto. Parole povere. Poi, Oscar, vogliamo salutare Carmelo Lauricella che è stato in studio in questo momento. Evitare... ci deve sistemare il computer. Ah, ha fatto tic. Ma questo, caro mio, è altro che San Carmelo oggi, non è mica San Lorenzo da Brindisi. San Carmelo Lauricella. Va bene, grazie Carmelo. No, è tornato Renzusconi, cioè c'è chi dice e questa è l'ennesima prova di, vedete, di patti. Ah, ecco cosa compare su quello schermo nascosto, cioè, ragazzo prigioniero statua vagina. Ci sono dei bei colleghi, devo dire. Ah, ecco perché ora capisco. Scusate, cari ascoltatori, incidenti della diretta. Non so cosa dirti. Ah, vabbè. Qualche collega che era venuto qui a controllare qualcosa. Sì, esatto. Allora, dicevamo, rimettiamo ordine. No, c'è l'accusa politica del patto del Nazareno risorto, no? Inciucione titola oggi il Fatto Quotidiano, cioè salvato Berlusconi da chi, visto che hanno votato in segreto? Ciascuno dice ovviamente sono stati 5 Stelle, no, sono stati PD. In realtà io ho letto i numeri, ma i numeri fanno tornare abbastanza il voto, il risultato del voto, che, ripetiamolo, nega la possibilità di utilizzare le trascrizioni delle telefonate tra Berlusconi e le algettine agli atti del processo. Però se vai a vedere il risultato del voto, è praticamente possibile senza che ci siano stati travasi di voti particolari. Però no, sì, la questione è strana, è che sì, il voto segreto è stato richiesto. C'è stato anche un errore. Alcuni del Movimento 5 Stelle hanno detto: sì, l'abbiamo chiesto anche noi, ma ci siamo sbagliati nella concitazione dell'aula. La cosa interessante che scrive Luigi Ferrarella oggi, che tanto le intercettazioni, siccome questa non è neanche tecnicamente un'intercettazione, ma una registrazione audio, una di esse verrà utilizzata, per esempio, sì, perché è stata registrata direttamente da una delle oggettine. Naturalmente questa, la brillante bizantineria del nostro diritto è tale per cui si vota in Parlamento se sono intercettazioni telefoniche, nel frattempo se sono registrazioni ma non intercettazioni telefoniche valgono invece. Quindi cioè, viva l'Italia delle foglie. Che tra l'altro te la ricordi sulla Barbara Guerra come trattava Silvio Berlusconi? Diciamo con qualche segno di consuetudine un pochino altezzosa, uso una gentile perifrasi. Ma vuoi sentire o no? Ti fidi, è tornata la politica. Ma no, la Barbara Guerra che svegliatemi dopo, va sì, bene. Sì. No. Che Silvio, io sono stanca di essere presa per il culo, sono Barbara, scusami il termine, adesso sono veramente stanca. Berlusconi che tenta di reagire. Ascolta, non è casa mia quella, Silvio, non è casa mia quella, sono in mezzo alla strada ancora, dopo 4 anni di merda, ancora. Vabbè. Ma stiamo scherzando! E Berlusconi subito si rimette si rimette così, no? Io penso che alla fine la gente, dopo anni e anni di sentirsi propagare questa roba, io capisco perché alcuni invochino Putin ed Erdogan dei nostri ascoltatori. No, lo capisco, ma non lo giustifico. Naturalmente mi fa, sono molto contro queste opinioni, che intanto sono più diffuse tra gli italiani di quanto non si immagini. Uno, cioè l'uomo forte alla Putin, Putin piace tantissimo oramai agli italiani. Chi se ne frega se è un illiberale, se fa il doping nello sport. Ma noi siamo sempre stati se per fa l'uomo esplodere forte, i giornalisti, come ieri è successo, un giornalista rompiscatole in Ucraina, eccetera, eccetera. E inizio a vedere che ci sono italiani che persino su Erdogan iniziano ad avere aperture. Però io penso che a furia di vedere una politica che è questa e propone questo da anni, in qualche modo la gente dice no? Un pochino, secondo me, c'è una correlazione, non voglio dire una catena causale, ma una correlazione di la gente che non ne può più di vedere questa roba bloccata su questi argomenti. Sì, anche perché è tornata la politica, si pensava su cose, ecco, no, su cose no, che interessano, coinvolgono direttamente gli italiani. Invece questa storia anche dell'oggettino, ma effettivamente, quando magari Berlusconi era premier, poteva interessare di più. Adesso stiamo proprio adesso parlando di... no, ma che in Parlamento, perché poi al di là della faccenda, quello che conta è che in Parlamento oggi i gruppi parlamentari, come abbiamo trasmesso all'inizio per documentare, ancora è su questo che tra di loro fanno differenze politiche. Allora, questo significa avere la testa rivolta non al passato, al passato remoto, mi dispiace, ma è così, qualunque cosa se ne pensi poi di quel in passato. Tutto questo, forse la notizia più interessante di politica oggi è che domani c'è un vertice convocato proprio da Berlusconi, e il Foglio racconta che Berlusconi vuol fare tabula rasa, pensa a Stefano Parisi, Stefano, che ha perso di recente a Milano le comunali, però ma ha rilanciato, ha perso cioè, bene, nel senso che da nessun'altra parte se nelle grandi città, e guarda caso Oscar proprio Parisi oggi fa una lunga intervista alla stampa dicendo: sono pronto a rilanciare il centrodestra. Potrebbe essere lui l'uomo del rilancio del centrodestra. Non so, questo vediamo. È... si parla di una convenzione, mi pare di capire, cioè di un'assemblea per il rilancio sulla base di un documento che avrebbe già tirato giù. Vediamo. Allora, Alessandro ci chiama da Milano. Buongiorno, Alessandro. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Complimenti per il programma. Volevo buttare giù una sensazione che ormai da tempo mi viene alla mente, soprattutto in vista delle ultime vicende in Turchia, in Ucraina, in Russia. La mia sensazione è che la democrazia stia morendo per un semplice motivo: la gente non riesce più a capire esattamente che cos'è democrazia, per che cosa vale la pena discutere e che cosa vale la pena lottare. E la dimostrazione è il fatto che in Turchia succede quello che sta succedendo e la nostra rappresentanza politica non è capace di esprimere un parere su delle virtù essenziale per cui si è combattuto nei secoli passati e che è la base fondante della nostra società. Sta morendo la democrazia, questo è il assunto molto molto amaro, immagino di capire anche dal tono della voce del Salvatore Milano. Però io penso che il nostro ascoltatore, quando sottolinei che la politica, le istituzioni, l'Europa, ma anche quelle nazionali, non riescono a trovare le parole giuste per commentare. Guardate che siamo arrivati a quasi 80.000 individui tra militari, magistrati, insegnanti, rettori, tra carcerati e sospesi in Turchia. Ecco, che in tutto questo non si riesca a trovare un tono che stacchi rispetto a questo rumore di fondo che abbiamo mandato in onda poco fa del Parlamento italiano e che esprima condanne che rimandino a un terreno di principi comune. E il nostro ascoltatore credo che colga un punto serio però del fatto che... Assolutamente sì. Tra l'altro di Turchia, della scomparsa progressiva della democrazia in Turchia, ne parleremo tra poco. Oggi l'Unità titola "Golpe in Turchia", cioè sempre più le persone dicono eccolo il vero golpe, quello a cui stiamo assistendo dopo la farsa che abbiamo visto, farsa secondo molti, qualche giorno fa. Ci chiama però Davide da Catania. Buongiorno Davide. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Gemmino. Riguardo quello che è successo ieri in Senato, la votazione, non tanto per la votazione in sé, più che altro sul voto segreto, com'è possibile che si possa accettare, non tanto da un punto di vista legale, ma quanto anche da un punto di vista morale, che dei parlamentari votino su questioni importanti o meno in modo segreto? Io da cittadino come faccio a valutare un parlamentare se poi all'atto pratico le votazioni sono segrete, quindi non so come ha scelto e tutto ciò che viene di conseguenza. Cioè, non bisognerebbe abolire il voto segreto, non ho capito, secondo lei? Sì, va bene. Esatto. È una proposta concreta, bisognerebbe cambiare tutti i regolamenti parlamentari. E però sugli atti, insomma, è una tradizione del Parlamento, questo per spiegare perché è così, che è una tradizione dei parlamenti liberali fin dall'Ottocento, quella di consentire voti segreti su, in particolare su voti che riguardino comportamenti, giudizi su comportamenti, utilizzo di strumenti di indagine verso i parlamentari stessi. Il voto segreto era allora concepito come garanzia per evitare ai parlamentari di votare o, come obbligava a fare il governo del re. Quindi ecco, da questo punto di vista la storia di quei voti segreti, come in questo caso sull'autorizzazione all'utilizzo di un certo atto di indagine o meno nella struttura formale di un processo, ha questa storia. Poi naturalmente è applicata in Italia. Davide diceva cambiata. I tempi sono cambiati. Cioè, quindi... perché uno dovrebbe, effettivamente non è che voglio seguire o sponsorizzare la proposta di Davide, però mi sembra anche ragionevole dire perché dobbiamo dare il voto segreto per capire se dare l'utilizzo alle intercettazioni di un processo oppure no. Cioè, qual è la ratio per cui un senatore debba votare in voto senza manifestare il proprio voto? Se uno me la spiega in maniera... Dice, e che no. Su queste la razza è questa materie, perché non si deve sapere come vota. No, che su queste materie non deve prevalere la disciplina di partito, questo è il punto. E quindi ciascuno può essere libero di valutare secondo coscienza. In questo caso, ripeto, mentre il partito ti dice contro Berlusconi eccetera eccetera, tu dici sì, però secondo me l'utilizzo delle intercettazioni è una barbarie, voglio essere libero di pensare. Io sto spiegando, non sto giustificando. Io stesso penso che oramai nei tempi in cui viviamo, ma non da oggi, da decenni, la realtà è che il parlamentare dovrebbe avere praticamente pubblico tutti i voti che esprime. Questa è la mia opinione. Non era così 30 anni fa. E non voglio seguire gli ascoltatori che ci dicono a volte dovrebbero essere pubbliche, no? Ti ricordo quello che ha detto, voglio sapere anche quando va a pisciare, deve essere pubblica ogni telefonata, la trascrizione. Questo no, ma almeno gli atti pubblici che faccio è votare in Parlamento, perché non dovrebbe essere manifesti. Anch'io nel tempo ho abbracciato questa linea. Comunque, Giovanni ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo fare una semplice considerazione su quello che diceva il dottor Giannino sulla stanchezza dei cittadini italiani che non vanno più a votare, via di seguito, tutte queste questioni. A me è venuto in mente un libro che ho letto tantissimi anni fa, che è Lezioni di Harvard, di Gaetano Salvini. Sì, lui analizzava dai tutti i più piccoli articoli dei giornali, è proprio una cosa certosina, è andato a vedere come mai è nato il fascismo, che è stata una reazione a certe violenze, sono state anche tanti, di certe bande rosse. Secondo me in Italia sta accadendo la stessa cosa, vuoi per l'immigrazione, vuoi per la stanchezza di certe situazioni politiche, arriveremo tra uno, due o tre anni a delle reazioni incontrollabili, e questa è la mia paura. Vabbè, insomma, la sensazione è Giovanni, come l'ascoltatore di Milano che dice la democrazia sta morendo, Giovanni ci dice il timore che siamo su un piano inclinato e scivoloso verso qualcosa oggi di più brutto. Italia oggi riprende un libro che è uscito da poco di Mannheimer, è nato Mannheimer, sondagista eccetera eccetera, no? E che riporta il progresso negli anni della risposta degli italiani a un sondaggio, chi non sopporta la politica, chi proprio non ha assolutamente fiducia, tanto da non sopportare, dichiarare non la sopporto. Nel 2003 erano il 58%, nel 2005 il 68%, tre mesi fa il 73%. Ecco, questo solo per dare numeri. Il piano inclinato. Ecco, ma l'abbiamo avuto inclinato. Ospite. Appunto. Va bene, a proposito di piano inclinato, la Turchia è su questo piano inclinato? È la domanda, insomma, che ci chiederemo anche per il ruolo delle donne, soprattutto. Avremo ospite Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice, ha collaborato tanto anche con Radio 24. Il professor Gian Enrico Rusconi, editorialista della Stampa, ma anche per tanti anni è stato a Berlino, perché si guarda molto a Berlino, Oscar, no? La Merkel, che non è che incontra la Theresa May. Qua c'era Oscar che vedeva le scarpe, la differenza delle scarpe tra Angela Merkel e Theresa May. Stato preso in giro per due anni da alcuni miei amici perché dicevo: guardate che Theresa May diventa una leader e sarà migliore di David Cameron. E tutti dicevano: oh, oh, oh, oh, adesso secondo me Theresa May ha, per così dire, delle buone scarpe per dare un buon passo alla politica del suo paese. Ma perché le scarpe? Cioè, le scarpe come sono? Leopardate, intanto. No, le scarpe alcune, che gli piacciono notare. Le scarpe animalier, sì, è una tendenza della sua brillante personalità. Però mi hanno fatto notare, Oscar, che sono le stesse che ha sfoggiato con la regina. Quindi no, ti sbagli. Non l'ha fatto osservare, non ha visto bene che non sono le stesse. Ne ha molte animali. Ma adesso, se non voglio sembrare un feticista delle scarpe, il problema è che ha una sua personalità. È una donna che i maschi, per come sempre, supremazia misogina, hanno sempre creduto: ma è una grigia, ma che ministra degli interni. Non è vero, ha una forte personalità, è molto più a sinistra di quanto non mi piacerebbe, dire la verità, quindi la riconosco. E infatti, come vedi, appena ha incontrato la Merkel, ha iniziato a definire un calendario di tempi ristretti. Stretti, sta facendo fare in pochi giorni a David Cameron e soprattutto a Boris Johnson, che è veramente un tipo un po' improponibile, una figura di due cretinetti. Quindi vedrai che Theresa May ci riserva delle positive sorprese. Va bene. Comunque, le sue scarpe esprimono una certa sicurezza in se stesso. Parliamo non delle scarpe di Theresa May, non dei Pokémon Go, ma di Turchia tra un attimo. No, lì parliamo di talloni di ferro, purtroppo. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Oscar, siamo qui alle 8:40 minuti. Allora, quello che succede in Turchia oggi c'è sul titolo di prima pagina del giornale, un po' brutale, un po' brutalino. No, non mi piace nello per stile niente. Della casa. Ecco, il titolo è, ecco, me lo sono perso peraltro. Comunque, Erdogan purga le donne. Questo è il titolo, un po' così, un po' brutale, sì, questo qui. Però il concetto, anche se espresso in questo modo, è che si guarda infatti alla Turchia laica, no? La Turchia laica è praticamente virtualmente pressoché costretta a sparire da quando sono successi i fatti venerdì, nel senso che a starsene chiusa in casa, a non poter manifestare le proprie opinioni, a non poter esprimere dubbi, a vedere i propri giornali e le proprie televisioni chiuse, a vedere nelle piazze ronde, che ieri questo enorme striscione appeso a piazza Taksim, vi impiccheremo tutti, dall'idea di quali sono le forze, il substrato popolare a cui sta facendo appello come cemento del regime, su decine e decine di migliaia di epurate in tutto il settore pubblico. Ieri una sprezzante, inguardabile, intollerabile lunga conferenza stampa di Erdogan, in cui, sprezzante verso la Francia, verso il mondo occidentale, ha detto: voi non mi date lezioni, io faccio quello che mi pare, eccetera eccetera, e ha detto: siamo ben lungi dall'aver finito. Quindi, come ovvio, l'islamizzazione è uno dei punti identitari del cambio a cui punta Erdogan. E quindi sono testimoniate anche dalle voci di chi sta in Turchia i primi segnali per le strade di fronte a donne che vanno vestite normalmente, dire: voi adesso velo, obbligate, piantatela, è finita, non avete capito, è finita. Ma non lo so, vogliamo chiedere intanto a Marta Ottaviani, collega, giornalista, si trova a Istanbul e da anni vive in Turchia. Marta, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, diciamo che per la Turchia non è un buongiorno. Ecco, esatto. Ma è davvero così? Cioè, si parla di ronde, di donne sempre più controllate, sono sporadiche testimonianze in tal senso, o c'è qualcosa di più concreto che sta avvenendo neanche poi sotto traccia? Ma diciamo che sono le prime testimonianze di un disagio che si avvertiva già da tempo. Ci sono comunque alcuni quartieri, ve ne cito uno per tutti, Eyüp, dove si trova una delle moschee più importanti per l'Islam. Fino a qualche tempo fa, e ve lo dico proprio per esperienza personale, si poteva andare in giro tranquillamente, non velate, a meno che tu non andassi a visitare la moschea, ma quello ovviamente era un altro tipo di discorso, trattandosi di un luogo sacro. Già in occasione della visita di Papa Francesco, quindi insomma si parla di 2 anni fa, per mia questione di sicurezza personale, visto che ero in giro da sola con un registratore e la tessera stampa, cosa che in Turchia non è particolarmente bene accetta, avevo deciso di velarmi così per non avere problemi. Quello che 2 anni fa era uno scopo precauzionale, in alcuni quartieri di Istanbul sta diventando una vera e propria necessità. Perché necessità perché sennò che succede? perché magari ti prendono a male parole, magari iniziano a dirti tu non sei di questa zona, che cosa ci fai qua, e se per caso capiscono che sei anche straniero, vieni veramente ormai in alcuni quartieri visto come la spia, nella peggiore delle ipotesi, in quella più blanda, il rompiscatole di turno che si sta facendo gli affari della Turchia moderna. Quindi insomma c'è un clima di sospetto e di intolleranza generale ormai in atto da qualche anno, diciamo da dopo la repressione della rivolta di Gezi Park, che mi preoccupa e mi perplime. Io oltretutto vorrei dire che le premesse perché si andasse a finire così, e su questo sono d'accordissimo con Oscar, c'erano tutte, e purtroppo la comunità internazionale non ha voluto vedere. Testa. A proposito di voluto venire, vogliamo salutare il professor Gianenrico Rusconi, che ha insegnato scienza politica a Torino, ha vissuto tanti anni, un profondo conoscitore della Germania, editorialista della Stampa. Eccoci qua, professor Rusconi, grazie per essere con noi. L'Europa non ha visto, l'Occidente non ha guardato, le premesse c'erano già, e poi lo ha visto lei, che è un docente universitario, insomma, le purghe dei docenti universitari, le purghe della classe dirigente. Divieto di espatriare a chiunque. Espatriare, sì, cioè, questo sì, è. Quello che avete detto è vero. Io tiro fuori due aspetti. Guardate che è un problema anche di una società divisa, come diceva chi mi ha preceduto, la giornalista, con molta chiarezza. C'è una parte di popolazione, cioè non c'è nessuna dittatura populista senza il popolo dietro. Quello che mi fa paura è quanti sono, chi sono, cosa hanno fatto, perché la pressione contro le donne del resto altrove non viene necessariamente dalla polizia o dalle guardie, viene anche dagli altri. Dal popolo. Quindi quello che mi colpisce è questo, cioè non dimentichiamo mai che non c'è mai un dittatore senza, li chiamiamo populisti, no? Senza una parte di questa, insomma, è evidente di quello che è successo questa settimana, che il colpo di Stato aveva dietro anche forse latentemente una specie di consenso. Quindi il problema è gravissimo, perché è una società spaccata in due, in cui adesso probabilmente una parte va addosso l'altra, il che è peggio. L'altra cosa l'avete detto, l'Europa che è vergognosamente impotente. Lei, professore, conosce bene la Germania. E qui, esatto, appunto aggiungo la Germania. I giornali di oggi, i tedeschi, parlano sostanzialmente dell'incontro Merkel e la signora May, che viene dall'Inghilterra, e poi naturalmente si dicono le cose che abbiamo detto noi, eccetera, ma non vedono il problema politico della Turchia, mentre hanno una grandissima responsabilità. E poi aggiungo una cosa che voi non avete detto e che io aggiungo maliziosamente: secondo me c'è un compromesso latente per cui tutti i tedeschi state zitti, perché io c'ho qua questi 2 milioni di migranti che mi avete pagato, stanno qua. È un'arma terribile di ricatto, perché la Germania su questo punto è fragilissima. La cancelliera che io, come dire, tecnicamente come politologo ammiro, perché è bravissima, ma ha fatto questo gesto estremo e adesso viene sottilmente ricattata. Ma è chiaro, neanche poi sottilmente, Oscar, non lo so. Sì, no, ma guarda, quello che mi colpisce, stamattina ho letto subito il giornale via internet, chissà, niente, lì parlavano giustamente, perché loro, come dire, sono hanno trovato l'altro partner egemonico, perché abbiamo dimenticato che io alcune volte forse mi faccio prendere la storia, siamo tornati indietro ai tempi di Bismarck, dove c'era la Germania potenza di centro e poi la Gran Bretagna che faceva la controparte, no? Adesso non voglio fare appunto che in questo momento, l'abbiamo detto, l'Europa è debolissima, è impotente, perché essa stessa non ha trovato l'equilibrio, e la Germania è sottilmente ricattabile dell'operazione che ha fatto. È interessante, Oscar, no, questa lettura, la questione dei migranti, che ieri abbiamo in realtà affrontato, a dire che insomma la Merkel però l'Europa dovrebbe essere, se avesse avesse un'anima politica e non fosse travolta da leader non all'altezza, perché poi alla fine questo è frutto del fatto che Olanda ha perso ogni credibilità nel suo paese, l'Italia ha la testa in contestazioni di regole europee per salvare MPS e coprire il culo al PD, perdonami, perché poi alla fine questi sono i fatti, cioè invece di guardare lontano altri leader europei, istituzioni europee, sapendo che la Germania, come giustamente ci ricorda Rusconi, è pesantissimamente esposta per via di quei 3 miliardi, per via del fatto che l'ha costruito la Merkel, il compromesso, ma altri in Europa dovrebbero giocare di squadra e dire ci sono dei principi e dei valori, caro Erdogan, per cui qualunque cosa avvenga e qualunque cosa tu voglia utilizzare come strumento nei confronti di pressione dell'Europa, devi sapere che con questo modo sei fuori, e noi ci battiamo perché la metà del paese, giustamente ci dice Rusconi, la metà, perché ha preso il 49% a novembre Erdogan, la metà del paese che non si riconosce in te sappia di avere in noi interlocutori, attenzioni, sostegni, non perdete la testa, non arrendetevi ai fascisti, non arrendetevi a chi è peggio di Mussolini con i professori dell'università italiana, bisogna usare toni così, altrimenti l'Europa non esiste, non Erdogan sumati. Farà quello che non so, chiediamo vorrà. Marta Ottaviani, la questione dei migranti viene utilizzata, è emersa in questo momento come arma di pressione nei confronti dell'Occidente, quindi dell'Europa, lì in Turchia, oppure no per il momento? No, per il momento no, però può tornare fuori da un momento all'altro. Io poi ho una brutta notizia da dare al professor Rusconi, a voi e a tutti gli ascoltatori. Onestamente, Recep Tayyip Erdogan, di quello che dice l'Europa se ne frega. L'unico modo per fermarlo in questo momento, ma si andrebbe contro gli interessi nazionali dei singoli stati, sarebbe bloccare i rapporti commerciali con la Turchia, perché in questo momento veramente l'economia è l'unica cosa che lo può fare vacillare, perché per il resto al popolo dalla sua parte e quello non glielo toglie nessuno, anche perché chi non è dalla sua parte, con quasi 60.000 persone arrestate, lo stato d'emergenza in atto, 3.000 magistrati sollevati dalle loro posizioni e quindi non in grado di fare indagini imparziali, è come minimo silenziato. Sui migranti voglio dire una cosa molto interessante, secondo me non solo è un'arma di ricatto a doppio taglio, perché non solo Erdogan dice sostanzialmente se voi non state attenti io ve li rimando tutti in casa, Erdogan negli ultimi tempi sono comparse diversi report sui giornali nei quali si dice pronto addirittura a dare la cittadinanza turca ai migranti, quindi se la Turchia, se anche l'Europa dovesse andare avanti, Dio non voglia, in questo cammino scellerato per far entrare l'Unione Europea o anche solo per liberalizzare i visti, noi i siriani che abbiamo cacciato dalla porta rischiamo di ritrovarci in casa dalla finestra, quindi voglio dire a quel punto avremmo addirittura pagato Erdogan per tenerseli e anche per dargli la cittadinanza e ritrovarceli qua lo stesso. Insomma, diciamo che la situazione, il professor Rusconi ha sentito, sì, abbiamo, creato, però... abbiamo creato un pasticcio forse che è più grande di quello che pensavamo che sarebbe potuto verificare. Adesso come gestirlo, chissà chi ha la risposta o no. A quello che stiamo dicendo, cioè che l'ha detto all'inizio fosse in maniera un po' brutale la nostra collega giornalista, non è che guarda l'Europa, la vera ambizione Erdogan è trovare una sorta di leadership dall'altra parte nel mondo islamico, aperture un po' equivoche verso Putin, cioè l'ambizione di Erdogan non è più l'Europa, forse approfitta di questa situazione per l'altro progetto che già aveva, poi non lo so se è un visionario o se è un personaggio importante, ma non pensiamo di essere così importanti, perché per giustamente noi possiamo ricattarli economicamente, ma facciamo danno a noi stessi, è un po' il discorso con l'embargo nei confronti della Russia, no? Che però professor Rusconi, adottando questo criterio di estrema consapevolezza di un progressivo decadimento, noi aiutiamo il processo di scomparsa dell'Europa dalla storia, cioè e questo, guardi, posso dirle, ma non lo dico per critica a lei, dico semplicemente che quello che mi colpisce è la quantità di ascoltatori negli anni che oramai in Italia dicono, ma tutto sommato Putin, Erdogan, gli uomini forti, ma di che cavolo di principi parlate, della superiorità europea, la democrazia, la libertà, ci vogliono persone così, guardi che anche in Italia è diventato, il consenso è molto più forte che pochi anni fa, non crede? Sì, sì, è vero, però adesso facciamo un passo indietro e torniamo alla Germania. Dico una cosa che alcune volte stupisce chi ascolta, cioè la Germania è egemone, ma è l'unica democrazia funzionante in Europa, certo. Tra l'altro, quindi non è vero che c'entra la democrazia. Secondo me è proprio un problema di leadership di classe politica, no? In una democrazia, cioè l'Europa, grazie a Dio, non può più regredire rispetto agli standard come dire democratici normali. Speriamo. E a questo punto la Germania, con la quale giustamente litighiamo, dice ma guarda che sta facendo una politica sbagliata, ma nulla si può dire su un piano democratico. Se c'è un paese democratico, ragionevolmente, insomma, non è che si può sapere, è la Germania, no? Quindi io non c'entra la democrazia, io sposterei proprio sulla classe politica, abbiamo l'Italia, lasciamola perdere. Cioè, avete detto Hollande che non sta facendo, forse adesso l'Inghilterra tira fuori un nuovo personaggio, e altrimenti rimangono i tedeschi, insomma. È la classe politica non all'altezza della situazione, più che non i sistemi come lo so, però è la classe politica, la stessa classe politica europea, non sto dicendo la Merkel, che ci ha messo in questa situazione, come diceva Marta Ottaviani, senza guardare a quello che potevano essere le conseguenze, gli sviluppi. E ora come uscire questa domanda, con cui per il momento vi lasciamo, anche perché c'è auguri e sostegno alle donne turche, perché esatto, nel vero futuro c'è quello che ha detto Marta Ottaviani all'inizio. Ringraziamo Marta Ottaviani e Gian Enrico Rusconi, però noi non ci fermiamo qui, no, cari ascoltatori. No, in diretta fino alle 9:30. Fino alle 9:30. Parleremo dei tribunali dei minori, che qualcuno vuole cancellare, vuole togliere con una riforma. Ovviamente senza per questo far scomparire i diritti dei minori, cioè però, traslarli nei tribunali ordinari. Ma com'è che il mondo del diritto italiano si spacca in due rispetto a una cosa che, secondo me, rispetto alla giustizia generale funzionava abbastanza, e dice no, bisogna abolirli e sostituirli con una roba che non è chiara. Perché? Tenteremo di spiegarlo. Ce lo spiegheranno. Chiamateci comunque 800 24 00 24, anche sulla Turchia, su insomma tutti gli altri temi che volete. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La drammatica e per molti versi sconsiderata repressione che il presidente turco Erdogan sta attuando nei confronti dei cosiddetti oppositori ormai sta assumendo i contorni di una vera e propria resa dei conti, al di là delle responsabilità del tentato golpe. Lo diciamo per chiarire in maniera inequivocabile che in questo momento, quando si parla di Turchia, il primo problema e la priorità assoluta deve essere data al rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini turchi. Certo che già le varie agenzie internazionali stanno riflettendo sull'impatto che questa situazione avrà sulla crescita economica turca. Ieri Standard & Poor's ha abbassato il voto al debito turco e soprattutto ha posto in negativo le prospettive future. È troppo presto chiaramente per capire l'entità del danno economico, ma è abbastanza certo che vi sarà un danno economico, con un rischio anche verso le banche straniere esposte in Turchia per circa 120 miliardi di dollari. Le più presenti sono le francesi, che hanno 40 miliardi di dollari di esposizione, seguite dalle britanniche con 25 miliardi di dollari. Così come certo sembra già il danno a una delle voci principali del bilancio commerciale turca, ossia il turismo, e il rischio che un avvitamento della situazione economica produca un ulteriore avvitamento delle tensioni politiche è dietro l'angolo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità, e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 9:05 minuti il buon Oscar Giannino qui mi sta facendo notare che è il momento buono per il Torino. Il Torino grande. Avete preso un grande allenatore, Mihajlović. Sì, abbiamo. Soprattutto Cairo che ha preso il RCS con una grande gara di mercato e saranno ottime cose. Segnalo agli interessati una bellissima intervista di Cairo al Foglio di oggi in cui parla della borghesia, dei discorsi da bar che lui reputa molto importanti, del Corriere come la 7, insomma fa capire che mettiamo un po' di sano spirito del Ventura, Toro. Ventura della nazionale che vincerete adesso, il tricolore. No, adesso vincerete il tricolore. No. Però se ci rifletti, è chiaro che Ventura non ha questa capacità di assassinare il morale dei suoi giocatori e ricrearli a sua immagine e somiglianza, però Ventura negli anni, avendo degli organici di modeste pretese, ne ha sempre tirato fuori degli onorevoli risultati. Quindi per la nazionale, è il momento del Torino, ma vincerà ancora la Juve. Però devo avvisarvi, cari ascoltatori, che nell'intervallo, qui perché siamo molto ascoltati, nell'intervallo, non ha molto capito chi riferiva a Pechino, perché abbiamo ricevuto una telefonata di Sonny Wu che diceva Milan, indirizzo Milan, numero telefono Milan. Gli abbiamo spiegato che qui è Alessandro Milan, non Milan AC, però Sonny Wu ha immediatamente sentito. Quando non ha voluto parlare con te, voleva parlare con un altro Milan, però vabbè, Sonny Wu. Forza Milan. Allora Antonio ci chiama da Catania, buongiorno Antonio. Buongiorno. Che dice? Allora, io no, facevo una riflessione, io sono un cattolico praticante ma un po' critico nei confronti un po' dell'istituzione ecclesiastica, ma devo ammettere che in politica estera la Santa Sede forse è più profetica di quanto non lo siano molti governi forti. Nessuno lo ricorda in questi giorni, o meno perlomeno non l'ho visto io sui giornali, però la Santa Sede è stata l'unica in due momenti, sia con Benedetto XVI sia con Papa Giovanni, a mettere in guardia sulla Turchia di Erdogan. Prima E no, lì arriva, no, perché non sapevo la premessa, alla Turchia lei voleva arrivare. La Turchia, sì. Il Vaticano infatti, aveva messo in guardia. Insomma, è una cosa che mi colpì, perché allora insomma stupì parecchia, anche me, devo essere sincero, quando mi ha detto XVI, forse non è ancora pronta la Turchia, e molti insomma furono scettici, eppure certo non si può pretendere che la Santa Sede faccia però dice lei no. Antonio fa notare che la Santa Sede ci ha visto, il Vaticano però, ha visto più lungo però come avete ascoltato qua più fedele ascoltatore, il padre Domenicano che è intervenuto lunedì, come ovvio la Santa Sede non poteva sfuggire al fatto che con Erdogan il controllo della politica, cioè del governo sugli affari religiosi e sul clero islamico, è diventato un clero nazionale, come non ci sono analogie attualmente negli islam diversi nel mondo, un clero nazionale sotto il comando del governo, ecco, cioè qualcosa che ha come uguale solo il clero wahhabita nell'Arabia Saudita sotto gli al-Saud, guardate che è più indipendente dagli al-Saud di quanto non sia in Turchia, e questo non sfuggiva alle antenne vaticane, questo spiegava quelle prese di posizione. Sì. Ci chiama anche Luca da Lucca, buongiorno. Buongiorno, è un piacere parlare con voi. Vi ascolto sempre. Allora, bene o male, diciamo, la mia riflessione si collega un po' a quella dell'ascoltatore precedente, anche se non è di estrazione cattolica, nel senso che è più un'impressione personale. Io ricordo durante un viaggio di qualche anno fa in Turchia, in località turistica, sorvolando sopra Istanbul, vedevo tutte queste vie disseminate di moschee, ma veramente disseminate. E era il periodo dove che si parlava dell'inclusione appunto della Turchia in Europa. La religione predominante, cioè cosa la stupisce il fatto che ci siano tante moschee? Quello che mi stupiva era il fatto di dire, qui giungo un po' alla riflessione dell'ascoltatore precedente, che un'Europa invece fondata su valori cristiani, come bene o male quella attuale nostra, come poteva conciliarsi con una Turchia così islamizzata? Ma oggi, come vediamo dal comportamento di Erdogan, che inneggia anche lui ad Allah e che chiaramente sta sguinzagliando degli scagnozzi musulmani per velare le donne, Purtroppo giunge a questa, va bene, a questa sua idea, ma insomma che Erdogan sia musulmano e che sia capo del partito islamico non è che lo scopriamo adesso, non è che l'Europa se ne accorge adesso, però l'osservazione di Luca è questa. Vediamo se Matteo, concludiamo che poi dobbiamo parlare di tribunale dei minori. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Oscar, buongiorno Milan. Mi sarebbe piaciuto molto parlare di avere alcune digressioni sul calcio da milanista, ma purtroppo avevo chiamato per parlare della Turchia e vorrei dire innanzitutto allo scorso ascoltatore che a Venezia ci sono chiese ogni 20 metri, ce ne abbiamo forse 550 e non per questo andiamo a fare le crociate. Quindi... No, vabbè, ma lui diceva che perché questo si concilia con l'Europa cristiana. Comunque, il suo parere invece? No, certo, volevo dire tutt'altro. In realtà è che è un po' una critica, invento un po' l'acqua calda in realtà, però... di fatto non capisco perché siamo così bravi come noi Occidente, dal più piccolo dei più significanti dei cittadini fino al più importante dei politici, siamo fortissimi a essere i dietrologi, no? Succedono delle tragedie e poi le canzoni Il mio nome è mai più, tutte cose del genere, dobbiamo fare qualcosa. A me, voglio dire, tutti quanti i segnali di qualcosa di veramente grave potenzialmente alle porte. Cioè, non vuol dire che bisogna intervenire militarmente, ma come diceva la bravissima giornalista poco fa, i mezzi ci sono. Naturalmente abbiamo sentito subito la reazione, dice, no, ma mica vorremmo però intervenire economicamente, ci facciamo del male da soli. E allora, se non vogliamo giocare nessun ruolo nella storia, guardiamoci l'ombelico e buonanotte. Non lamentiamoci che poi anche in Italia qualcuno alla fine vincerà in nome dell'uomo forte, perché questo capiterà, se finisce così. Ma noi in Italia l'abbiamo sempre guardato l'uomo forte, è una pulsione con grande attenzione e soddisfazione. Machiavelli e Guicciardini, per sapere. Salvo come... poi dopo due anni dire no, tutti ma è l'uomo troppo forte. Ma certo, ma figuriamoci. Noi siamo sempre al momento giusto per i tiranni o contro i tiranni a seconda dell'area che tira. Comunque c'è... Principi, la forza dei principi. Certo. Cari ascoltatori, c'è una delega per la riforma della giustizia che è stata approvata alla Camera, non è ancora in calendario al Senato, ma che prevede, tra le varie cose, anche l'abolizione dei tribunali per i minori. Con una sostituzione. Ci sarebbero sezioni specializzate all'interno dei tribunali ordinari che si occuperebbero di minori, ma il tribunale dei minori come lo conosciamo oggi verrebbe assorbito, cancellato, eccetera. E il mondo del diritto è spaccato in due. Il mondo del diritto è spaccato in due, ci sono petizioni non fa parte di questo, degli interna corporis, anzi come si diceva con formula secondo me migliore, agli arcana imperi, perché sono impenetrabili a volte i motivi di questi dibattiti, non è per niente chiaro se bisogna procedere verso nuove sezioni specializzate, ma allora perché bisogna fare a pezzi quelli che ci sono e sono l'evoluzione della giurisprudenza e della specializzazione già per anni? Cosa nasconde davvero questa volontà di superare il tribunale dei minori per andare a un altro? Forse il fatto che si considera l'evoluzione giurisprudenziale del tribunale dei minori troppo pesantemente a favore dei minori e troppo poco a favore delle parti, cioè degli adulti che se li contendono, perché poi questo è anche il punto. Cerchiamo di capirlo. Intanto con noi c'è Melita Cavallo, che è stata presidente del Tribunale dei Minori a Roma. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Ha scritto anche un libro da questa esperienza, La mia vita di giudice in 15 storie, edito da La Terza. E c'è un avvocato, il presidente dell'Associazione Italiana Avvocati della Famiglia e per i Minori, Alessandro Sartori. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Melita Cavallo, intanto un suo giudizio: è una cosa buona, è una cosa non buona questa riforma? Essere stata giudice minorile una vita intera, cioè 44 anni, e passando tra vari tribunali, Napoli, Milano, Roma... e altre esperienze, perché prestata alla giustizia minorile, dico che naturalmente non condivido questa soppressione dei tribunali per i minorenni. Quando ho iniziato nel lontano 71 si discuteva del tribunale unico per la famiglia e c'erano voci dissidenti. Dopo 44 anni siamo arrivati alla soppressione. Ecco, non sicuramente non sono favorevole a questa soppressione. Non è favorevole. No, assolutamente, perché perdiamo quello che è stato considerato all'estero per tanti anni, dove sono stata come giudice minorile, un fiore all'occhiello dell'Italia, invidiata da tutte le corti dell'Europa. Quindi viene a morire la specializzazione del Tribunale per i minorenni, che se fossero necessari degli aggiustamenti, questo può anche darsi, in particolare in riferimento ai giudici onorari che vengono definiti in questo comunicato che ho letto dell'AIAF una pletora. Sicuramente il loro ruolo andava forse ridefinito, ridimensionato, però perdoni, la delega è stata eccessiva. Perdoni dottoressa, però questo riguarda il ruolo dei giudici onorari in tutta la giustizia italiana, che è un'anomalia rispetto a come li tratta lo Stato, eccetera eccetera, ma non è che riguarda solo il diritto per i minori. Stiamo parlando di questo argomento e io diciamo... No, ma è perché... Io diffido un po' di questo fatto, ma lei ha capito, dal suo punto di vista, se posso chiederglielo, con un po' di libertà di espressione, secondo lei qual è la vera ragione che anima questo intervento? La vera ragione è che gli avvocati, l'avvocato non ha tollerato assolutamente l'interferenza del giudice onorario, che non ha le competenze, non ha la stessa matrice culturale del giudice togato, e il giudice onorario, e l'avvocato pretende come contraltare il giudice togato. Questa è stata la cosa principale. Beh, insomma, nel leggere il comunicato che ieri abbiamo anche letto sul Corriere della Sera del presidente dell'AIAF, oltre che di un'altra associazione, ma il presidente dell'AIAF è qui con noi, Alessandro Sartori, un po' di verità forse c'è, la critica a quella che è definita una pletora dei giudici onorari. Però ci spieghi, avvocato Sartori, perché invece voi siete favorevoli a questa soppressione per la creazione invece di sezioni specializzate nei tribunali ordinari. Perché, avvocato? Beh, anzitutto va precisato che c'è già stata un notevole ridimensionamento delle competenze del tribunale per i minorenni, come ricorderà certamente la Presidente Cavallo, che saluto, e ho qua davanti a me proprio il Si fa presto a dire famiglia che mi ha mandato il suo editore Giuseppe La Terza. Ma perché? Perché con la riforma che è avvenuta, molto importante e molto bella, con la legge 219 del 2012 della filiazione, sono state molte delle competenze dei tribunali per i minorenni sono state già attribuiti ai tribunali ordinari. La nostra lotta, che è una vera e propria lotta che facciamo da 23 anni, da quando l'AIAF è stata la prima associazione a costituirsi proprio per la tutela migliore della famiglia e dei minori, infatti ci chiamiamo per la famiglia e per i minori, ecco, è che il tribunale per i minorenni, indipendentemente dal valore e dalla capacità dei giudici che lo compongono, parliamo dei giudici togati, e tra l'altro una per quanto riguarda i giudici onorari, di cui ha parlato prima la dottoressa Cavallo, dobbiamo dire che l'Italia è l'unico paese, l'unico a concepire la presenza di esperti nelle scienze psicologiche e comportamentali all'interno dei collegi giudicanti civili. Cioè, vogliamo spiegare, tra l'altro, sono giudici onorari, cioè psicologi, laureati in discipline sociali, assistenti sociali. Ecco, voi non volete che intervengano. Mentre l'esperto nei collegi penali ha una finalità, e il tribunale per i minorenni penale, non solleviamo problemi, ha una finalità di comprendere quale sia la pena più adeguata alle esigenze e alle potenzialità di recupero del minorenne, ciò non vale per i collegi civili, che sono chiamati ad una funzione giurisdizionale di tutela dei diritti fondamentali della persona, e quindi ecco perché, con espressioni anche un po' colorite, ma quello era un comunicato diretto alla pancia dei cittadini, poi uscirà l'avete un comunicato definito molto una pletora, più scientifico, una pletora. Appunto, ma certo, perché... Ma perché non li volete come... non li volete come contraltare, come dice la Presidente Cavallo? Non è un contraltare, sono esperti, consulenti, certamente che svolgono una funzione ottima e adeguata nelle loro rispettive competenze, ma inserirli nell'ambito del collegio giudicante, addirittura, perché adesso ci raccontiamo tante storie, ma c'è una cosa che bisogna capire anche, la disposizione geografica di questi tribunali per i minorenni. Qualcuno mi deve spiegare perché ce ne sono 4 in Sicilia, 2 in Calabria, 2 in Campania e 3 compresa la sezione staccata di Taranto, 3 in Puglia. Perché? Vabbè, in regioni però molto... mi scusi, non è che allora per gli interessi di chi esercita le professioni tutte legate al mondo forense, allora noi aboliamo il tribunale dei minori, perché così abbiamo la possibilità col ministero di individuare nuove sezioni specializzate. L'impressione che ho ascoltandola è questa. Non mi state lasciando spiegare. Il problema per i giudizi che riguardano la famiglia e i minori devono essere messi da giudici di prossimità, presenti. Come si può avere un solo tribunale per i minorenni nel Veneto, che ha 7 enormi tribunali, nel Lazio, nel Piemonte, nella Toscana, nelle Marche, eccetera, e nell'Emilia Romagna? E perché invece ce n'è così tanti in altre posti? Ma manca completamente la prossimità. Sarebbe bellissimo se ci fosse un tribunale per i minorenni, si fa per dire, in ogni vabbè, quindi per questo motivo, però la questione non ho capito, Presidente Cavallo, ma dovesse esserci delle sezioni speciali all'interno dei tribunali, specializzate all'interno dei tribunali ordinari, ci sarebbero comunque sempre psicologi? Ma specializzato non ci sarà niente, perché la specializzazione non si acquista da un giorno all'altro. Esatto. Quindi sicuramente così si butta a mare la competenza professionale. I tribunali per i minorenni sono oggi laddove c'è il distretto di corte d'appello, perciò in Sicilia ce ne sono tanti e in Puglia altrettanto, questo è il motivo. Comunque si sarebbe potuto organizzare molto diversamente, anche con i giudici onorari, per esempio come in Francia, se non li si tollera nell'ambito del giudizio, si possono organizzare come staff a cui il giudice si può riferire per un ascolto, perché è fondamentale, altrimenti tutto viene deciso dalla consulenza tecnica. Che cosa stanno facendo i tribunali ordinari? Consulenze tecniche, dopodiché la decisione non è del tribunale, ma è del consulente tecnico. Ma voglio dire, allora però voglio dire, se vogliamo questo, allora va bene anche così, ma è un capovolgimento totale di ciò che significa una sentenza, un provvedimento da parte di un giudice specializzato. Ma anche perché, mi scusi, eliminare il confronto, diciamo, che è stato eccessivo, questo lo riconosco, la delega è stata eccessiva ai giudici onorari, si può pensare ad uno staff di giudici onorari, psicologi, pediatri, psichiatri, che è a disposizione del collegio del giudice che ha bisogno di loro con loro. Ma e non delegando infatti, il noto. Menita Cavallo, la questione è questa: non è che nei tribunali ordinari i giudici onorari verrebbero tolti di mezzo, ecco, dico brutalmente, che è un po' quello che ci ha fatto capire l'avvocato Sartori. Sì, non vengono tolti di mezzo, però non giudicano. Questo è il punto essenziale, non giudicano. Io mi permetto di sorridere di fronte a quello, perché ripeto, siamo in un ordinamento che in generale attribuisce alla magistratura onoraria compiti rilevantissimi su ogni materia oramai e per ambiti di competenza estesissimi. Se vogliamo credere che esiste un problema solo su questo e non sul fatto che ci sia una convergenza, come si vede, per moltiplicare il posto dove si può andare invece a dibattere su questo, allora io credo che dietro questa riforma ci sia un non detto grande come una casa, che butta a mare un'evoluzione giurisprudenziale ben caratterizzata, un punto di forza, di eccellenza di questo paese. Ogni tanto ne abbiamo, ma difendiamole, e santo Dio, per ragioni che hanno a che vedere con le, tra virgolette, convenienze e utilità delle professioni del mondo del diritto. Questa sarà sbagliatissima la mia impressione, ma questo io ne dedurrò. Questa è l'idea tua, Oscar, che l'avvocato Sartori non sarà d'accordo assolutamente. Di solito io sono per d'accordo. Chi fa per avvocato. Però è così evidente che, voglio dire, perché bisogna buttarla a mare questa faccenda qua? Dopodiché mi sarebbe anche interessato l'opinione di chi politicamente ha patrocinato questa riforma, ma vabbè, vedremo. Va bene. Avvocato Sartori, voi continuate. Posso? In questa certo, dissento totalmente da quello che è stato appena detto, perché intanto la legge delega prevede ancora un doppio binario, cioè salva le cosiddette sezioni distrettuali sempre presso le corti d'appello, sempre questo misfatto, eccetera, lontani e non di prossimità dove ci sono i minori, non è per l'interesse dei professioni, le professioni non c'entrano niente qua, è l'interesse dei minori che hanno diritto di essere valutati nelle loro e anche dei genitori genitori, che appunto, perché c'è la decadenza, sì, eccetera, deve essere valutata da un giudice di prossimità che è specializzatissimo come i giudici dei tribunali per i minorenni, perché non mi si venga a dire che i giudici dei tribunali minorenni sono solo loro specializzati. Ci sono in tutti i tribunali, come diciamo, Milano, Verona, ce ne sono tantissimi, dove ci sono sezioni che fanno solo diritto di famiglia e dove ci sono magistrati specializzatissimi, competentissimi, mentre per esempio, faccio un esempio, Tribunale per i minorenni del Veneto, di Venezia, gli ultimi due giudici che sono stati assegnati al Tribunale per i minorenni sono due giudici che hanno fatto la loro vita solo penale nei tribunali ordinari e che quindi di specializzazione non hanno niente. Quindi non è assolutamente vero che la fine del Tribunale per i minorenni, che è una struttura dal punto di vista organizzativo obsoleta, creata nel 1934 dove c'erano i minori, erano considerati così elementi o cittadini di serie B in un certo senso, e poi nell'anno 2016 stiamo ancora parlando di un tribunale distrettuale, perché questa legge è da censurare proprio perché conserva alla sezione distrettuale dove c'è la Corte d'Appello, conserva alcune materie come le adozioni, i procedimenti di decadenza della potestà dei minori stranieri non accompagnati, eccetera, e sempre con la presenza nel giudizio dei giudici onorari. Sì. Quindi è una legge che è parzialmente positiva per noi, ma che conserva alcune disfunzioni che clamorose, come ha detto anche la dottoressa Cavallo. Avvocato Sartore, insomma, avete spiegato le vostre posizioni, staremo a vedere poi quando questa legge, se andrà avanti in Senato, come verrà a maturare definitivamente. Noi vi ringraziamo, Benita Cavallo, Alessandro Sartori, presidente dell'Associazione Italiana Avvocati Famiglie Minori. Ma tu, sui vaccini come sui vaccini pensi? Ma sui vaccini sono assolutamente dalla parte del ministro Lorenzin, che oggi sulla stampa dice non esiste obiezione scientifica, obiezione per i vaccini, perché sarebbe come diritto all'obiezione di coscienza. Esatto, diritto all'obiezione di coscienza. Sarebbe come dire che c'è un medico che ha diritto a obiettare alla scienza. È un medico invece, cioè, può obiettare su altre tematiche etiche, lo sappiamo, ma l'obiezione di coscienza su una cosa antiscientifica Non si può fare. Silvio Garattin, per me, l'editoriale sul Messaggero, questiona a tutti, che dice appunto fidarsi solo della scienza per battere la malattia. Ma insomma, è come dire, è un medico che va contro la scienza. C'è questo fenomeno, però, non di coloro che naturalmente, non sto parlando di pediatri che dicono che col vaccino si fa il bimbo autistico, però che molti, e che si sia estesa l'opinione del principio di precauzione, principio che si sta estendendo sempre di più nella testa di molti nel nostro paese, anche tra i pediatri, questo fenomeno è diverso. Cioè, io stesso, due bambini piccoli, tocco con mano che ci sono dei pediatri che dicono: ma no, ma perché? Ma ci pensi bene? Più avanti, veda, eccetera, eccetera. Ecco, questo sicuramente anni fa non c'era. Non c'era, e infatti i risultati. Quindi l'informazione. Sempre più bambini non vaccinati, il risultato. Il che significa ripristinare le soglie di diffusione epidemiologica di malattie che prima erano bandite dalle scuole, perché il gatto si morde la coda, è questo che poi fa tornare nelle scuole pubbliche alcuni tipi di malattie. È chiaro. Comunque ci chiamano anche tanti ascoltatori sui temi che abbiamo affrontato. Vincenzo ci chiama da Bologna. Che vuole dirci, Vincenzo? Buongiorno. Buongiorno, vediamo un po' se riesco a farmi capire. Intanto una cosa, telefonavo per la votazione del Senato. Sì. Io con Berlusconi non c'entro niente, proprio anzi addirittura il contrario. E anche relativamente al fatto che penso che le votazioni debbano essere fatte a scrutinio palese oppure segreto. Però io mi chiedo questo e lo chiedo anche a voi. Ma non abbiamo diritto comunque a un po' di privacy? Chiunque, potrebbe esserci chiunque dall'altra parte, però non avremmo diritto. Cioè, quella telefonata, alla fine, che c'è di male? Mi fate capire? Beh, il processo Rubiter è quello in cui Berlusconi rischia di essere, perché siamo in primo, cioè bisognerà decidere il 3 ottobre se rinviarlo a giudizio, l'accusa di avere, come dire, corrotto 30 testimoni per a proprio favore negare in atti giudiziari su altri procedimenti. Quindi è questo quindi, stiamo parlando. Questa telefonata, quella telefonata, il valore processuale non è sui gusti, le preferenze private, erotico, omosessuali del cittadino Silvio Berlusconi è relativo alla capacità o meno probatoria del fatto che quelle dazioni richieste da chi era al telefono e concesse da chi rispondeva abbiano un valore di prova rispetto al fatto che si indirizzavano le loro testimonianze in atti giudiziari. Questo. C'è un modo per capire se c'era una sorta di condizionamento da parte di queste ragazze con foto di Berlusconi, però lei, caro ascoltatore, dice è una questione di privacy. Questo è il motivo per cui sono nel processo. Hanno una valenza pubblica, esatto. Secondo me. Non sono a dire i gusti sessuali o chissà cosa. Francesco ci chiama da Lecce, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Una valutazione, a parte i complimenti per l'ottima Marta Ottaviani da Istanbul. Quello che è avvenuto in Turchia non sarebbe potuto avvenire se non ci fosse la copertura o se non ci si aspettasse la copertura degli ultimi mesi della presidenza Obama, presidenza che si è dimostrata fin troppo tollerante con i movimenti islamici della Fratellanza Musulmana, eccetera. Dopo 8 anni abbiamo visto un Medio Oriente sconvolto, una Libia distrutta senza nessun potere statuale, trasformata in una nuova Somalia, con una presidenza che è stata molto più vicina all'Islam di quanto fosse stata qualunque altra presidenza precedente. Never forget his second name is Hussein. È così, il secondo nome è Hussein. Il secondo nome è Hussein, però l'estrazione è che Obama non è musulmano. Ecco, no, non è questo. Vabbè, come Francesco però, Lecce è una dice presidenza che... sicuramente disastrosa da questo punto di vista. Gli errori sul Medio Oriente sono un conto, non perché si chiami Hussein. Non cadiamo qui. Si potrebbe poi aprire, ma a un minuto dalla fine c'è chi dice che sono i disastri combinati dai Bush e company che stiamo raccogliendo. E c'è chi dice che sono i disastri. Purtroppo credo che ci siano parti di verità in entrambi i ragionamenti. Nicola è velocissimo da Pordenone, che dobbiamo chiudere. Nicola, buongiorno, ci chiudono. Sì. Dobbiamo vendere il Milan subito, in fretta. Su, dai. C'è qui, c'è Bu. Io sono tifoso dell'Hellas Verona, quindi ottimo. Quindi, per lei il Milan può andare in Serie C. Benissimo. Sì, dica Nicola. Niente, ho telefonato perché mi ricollego al discorso di Putin e Erdogan prima. Sì. Io sono stato in viaggio in Crimea qualche anno fa, adesso non ci siamo più andati perché mia moglie è ucraina e non vuole avere a che fare con i russi. Niente, avevo notato ancora quando siamo andati noi in Crimea che c'era in certo senso un'iniziativa politica turca in Crimea nell'appoggiare i tatari e la religione musulmana. E secondo me potrebbe essere la Crimea un motivo di scontro e di attrito tra la Russia e la Turchia. Lo era, ma come ha visto c'è stato un riavvicinamento repentino proprio 3 giorni prima del finto golpe. Quindi... No, Nicola, ci fermi qui perché sennò se ci racconta la storia della Crimea andando alla guerra di Crimea rischiamo di fare un po' notte. Bei tempi, dei nostri bersaglieri lì. Vabbè. Dobbiamo invece chiudere. Allora, noi qua andiamo da Sonny Wu. Da Sonny Wu, a telefono subito. Bacca. Vacca è un'altra cosa. Vacca, perché lo sai che la B in sudamericano si deve dire. No, ma se iniziamo a dire vacca, telefono con il Milan, finiamo tutti intercettati. Guarda, te lo dico già. Sarebbe Carlos. Forza Inter. Okay, questa è rimasta nella storia. Continuate su Radio 24. Sì, mi raccomando. Ciao.